E alle 9:04 minuti finalmente è il momento di Pensatech. La nostra trasmissione, il nostro viaggio nelle nuove tecnologie, nel digitale, soprattutto nell'innovazione, e proprio stamattina è proprio il caso di dirlo, si parla di innovazione. Parliamo di nanotecnologie, attenzione, non sono le tecnologie per le persone piccole. Lo spiegheremo ovviamente come tutti i venerdì con il nostro Glossatech, per dare qualche base a chi appunto è interessato a questi temi, ma magari non li mastica proprio molto. Accanto a me è Marco Boscolo, una buona giornata. Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E dall'altra parte del vetro, Elisabetta Tola, buongiorno. Buongiorno Damiana, Marco e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora Marco, diciamo, nanotecnologie, questa parola strana, non c'entra niente David Gnomo. No, non c'entra niente David Gnomo, stiamo parlando di una scala fisica, di dimensioni proprio, che è quello delle nanometro, quindi insomma stiamo parlando del molto piccolo, e all'interno del molto piccolo oramai da molti anni, non solo in Italia, insomma poco in Italia, ma soprattutto nel mondo, si sta facendo tanta, tanta innovazione. E l'occasione per parlarne è il fatto che tra pochi giorni a Venezia c'è un convegno che si chiama Nanotech Italia e che fa un po' il punto della situazione proprio sulle nanotecnologie in Italia, e quindi ci sembrava proprio giusto il momento di parlare non di David Gnomo ma delle nanotecnologie. Giusto, ma allora queste nanotecnologie, andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Beh, mi sembra il momento buono allora per il nostro appuntamento settimanale con il Glossatech. N come nanotecnologie. Dalle pagine sulle nanotecnologie del sito della Commissione europea. Le nanoscienze e le nanotecnologie sono approcci alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione che mirano a controllare la struttura e il comportamento della materia a livello di atomi e molecole. Le nanotecnologie rendono possibile lo sviluppo di materiali e dispositivi con nuove proprietà, funzioni e performance. Proprio la Commissione europea nel 2011 ha raccomandato l'adozione di una definizione comune di nanomateriali, i prodotti delle nanotecnologie. Questo consentirebbe di applicare in maniera corretta le norme in materia di sicurezza. Dunque, per definire un materiale nano, è necessario che una buona parte di esso sia formato da particelle di dimensioni comprese tra gli 1 e i 100 nanometri. Per avere un'idea delle dimensioni dei nanometri, che corrispondono a miliardesimi di metro, si può considerare che un capello è largo tra gli 80.000 e i 100.000 nanometri, o che le nostre unghie crescono circa di un nanometro al secondo. I nanomateriali sono presenti in moltissimi prodotti in commercio. Il più diffuso è il cosiddetto carbon black, o nero di carbonio, che viene utilizzato nel trattamento dei pneumatici. Altri esempi sono gli abrasivi usati nella costruzione di componenti elettronici, il diossido di titanio usato nei cosmetici o le nanoparticelle d'argento con funzione antibatterica usate in ambito biomedico. Stiamo insomma parlando del mondo veramente del micro, e che in realtà ci riguarda nella vita di tutti i giorni. Allora, dateci anche le vostre impressioni. Vi sembra strano che si parli di tecnologia in un mondo così piccolo? Allora, ricordiamo i nostri contatti. Ci potete mandare un sms al 348 7649 289 o una mail diretta a @radiocittadecapo.it. Ricordiamo però che ci potete trovare anche sui social network, e noi aspettiamo i vostri messaggi anche lì. La pagina Facebook è quella di Radio Città del Capo, mentre per Twitter abbiamo un Twitter tutto nostro, è Pensatech con il CH. Marco? Allora, questa era la scheda che raccontava non tanto del micro, ma proprio del nano, quindi siamo a un livello ancora più basso nella scala delle dimensioni, ma è uscito anche in questi giorni un documento interessante che faceva proprio il punto sulle nanotecnologie a livello europeo, e mi pare che di là dal vetro ci sia qualcuno che ha qualcosa da raccontarci in proposito. Cosa da raccontare? Un documento della Commissione Europea, c'è da dire sottolineare un aspetto. Quando parliamo di nanotecnologie, la Commissione Europea è nata molto di più con i piedi di piombo di quanto non sia successo precedentemente con altre tecnologie nuove, e cioè ha fatto tutto un lavoro anche di informazione proprio per sostenere questo settore che è così importante nello sviluppo dell'innovazione. Adesso do alcuni numeri, anche per accompagnarlo con tutte le opportune cautele del caso, quindi andare a mettere a punto, diciamo, sistemi di monitoraggio per vedere che questi materiali, soprattutto i materiali che vengono prodotti nei laboratori nanotech, siano poi materiali che naturalmente possano convivere bene con l'ambiente e con la nostra salute. E tutto questo si traduce in documenti che vengono pubblicati con una certa regolarità. L'ultimo documento è di un mese fa, dell'ottobre 2012. Si parla di quello che è lo stato dell'arte, quindi la conoscenza rispetto alla diffusione di materiali, quelli che citava Lisa nel Glossatech, il Black carbon, silicio, cioè materiali già in circolazione da molto tempo, di cui insomma si sanno parecchie cose, cioè che non hanno nessun tipo di impatto diverso dai materiali non nano equivalenti. Voglio solo dare due dati che ci sono in questo documento per introdurre il discorso, cioè un mercato attuale globale di nanomateriali che ha un valore di circa 20 miliardi di euro, e un mercato che impiega dalle 300 alle 400 mila persone soltanto nel mercato europeo, quindi insomma è un settore importante in crescita, con moltissime piccole aziende che si stanno fondando quasi di giorno in giorno, un mercato che probabilmente andrà crescendo molto. Si stima addirittura per il 2015, così dice questo documento, di arrivare ai 2 trilioni di euro. E siccome si parla anche di business in questo documento, abbiamo appena sentito i numeri citati da Elisabetta di un mercato importante e in crescita che occupa anche un certo numero di persone, abbiamo deciso di chiamare come primo ospite di questa puntata di Pensatech Nicola Trevisan, che è direttore generale di Veneto Nanotech, uno dei distretti di trasferimento tecnologico italiani proprio che si occupa di nanotecnologie, e che è anche uno degli organizzatori di Nanotech Italy, l'evento di Venezia che si terrà tra il 21 e il 21 di novembre, che abbiamo citato in apertura. Allora diamo subito il buongiorno a Nicola Trevisan, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno allora, a tutti. Abbiamo sentito un mercato importante, un mercato che è anche in crescita con delle prospettive interessanti, che in questo momento di crisi non è così secondario sottolineare. Ma vogliamo fare così intanto una fotografia del nanotech in Italia a livello di business? Quante sono le aziende italiane? Che numeri stiamo parlando? Ma i numeri sono comunque in costante crescita, parliamo di numeri importanti, parliamo di numeri che si riferiscono ad aziende di grandi dimensioni, quindi credo che quasi tutte le grandi company italiane in qualche modo, o come utilizzatori o come produttori di nanomateriali, sono attivi, e un numero sempre più crescente di piccole e medie aziende e tante start-up che si stanno affacciando sul mercato proprio con soluzioni ritrovate del mondo nano. Ecco, abbiamo sentito poi anche sempre dal documento rilasciato dalla Commissione Europea, c'è un settore molto forte che è quello del silicio e del carbonio. E quali sono i settori invece più sviluppati in Italia e quelli anche, se vogliamo, più interessanti da un punto di vista del business? Ma i settori in realtà sono veramente tanti. Diciamo che qui in Italia c'è una fortissima tradizione nel mondo della fisica, e quindi questo sicuramente significa dare delle competenze e portare delle competenze sia nel mondo del carbonio, del grafene, che è un po' l'evoluzione, se vogliamo, di nanotubi di carbonio. Sì, direi che sostanzialmente questa forse è una parte che ricopre una grandissima rilevanza, ma io non escluderei neanche la varia capacità di nel mondo della nanomedicina e quindi nello sviluppare materiali che in qualche modo riguardano sia la parte di terapia, di diagnosi, di sensori connessi alla detection di determinate patologie, quindi anche nel mondo della medicina direi che l'Italia può giocare un ruolo molto molto forte. In questi anni in cui, come Veneto Nanotech si è distinto come uno degli attori importanti in questo trasferimento tecnologico dalla ricerca al mondo del business, quindi nuove start-up, nuove idee di business, com'è cambiato negli ultimi anni lo scenario? Insomma, sono tecnologie in continua evoluzione, c'è un mercato in crescita, ma la fotografia di questi ultimi anni c'è stato un grande cambiamento oppure c'è, diciamo così, un trend, diciamo, di costante crescita uguale sempre? No, beh, in realtà c'è una crescita esponenziale. Io ricordo quando abbiamo cominciato, il primo laboratorio che abbiamo avviato era nell'ottobre del 2005, le aziende si contavano, quelle che arrivavano così a chiedere ed erano interessate così alle prime esplorazioni, alle prime attività. Ma invece adesso c'è un grandissimo fermento e nonostante il periodo di crisi noi registriamo negli ultimi due anni una crescita anche significativa. Parlo di noi, ma credo che questo sia assolutamente replicabile anche in altre realtà che si occupano di ricerca applicata molto orientata al trasferimento tecnologico. Questo perché le aziende, forse anche considerando il periodo di crisi, sono molto più attente a quello che il mercato può offrire da un punto di vista di soluzioni tecnologiche, di soluzioni innovative anche come elemento per superare una situazione di crisi. Quindi proprio questo riguardo a questo tema, la crisi, le nanotecnologie possono rispondere in che modo in alcuni settori proprio a questa scarsità anche? Le nanotecnologie, essendo un'area, una tecnologia assolutamente trasversale, impattano dal settore tessile alla medicina, alla meccatronica, meccanica avanzata, all'elettronica, al settore dello sport system. Quindi i settori di impatto sono veramente molto ampi. Quello che le nanotecnologie possono fare ovviamente può riguardare un miglioramento della capacità di competere delle imprese attraverso nuovi prodotti e anche attraverso un miglioramento dei processi. Noi siamo attivi su molte di queste azioni, sia sul fronte di nuovi prodotti che di miglioramento dei processi e questo lo registriamo anche da parte delle aziende. Ecco, questo è quello che può essere in qualche modo forse l'elemento di grande valenza per come supporto ad una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo in questi giorni. Ecco, la dimensione del mercato che citavamo prima nel documento europeo in termini di occupazione si riflette anche nel caso italiano, secondo lei? Cioè queste piccole aziende stanno, o le grandi aziende che citava e che stanno introducendo appunto l'uso di nanotech, o le piccole aziende che stanno nascendo, creano anche nuove possibilità di lavoro? Questo è un dato di fatto, non so darle dei numeri perché non c'è una statistica e non è facile farlo. Però è un dato di fatto, se noi andiamo a vedere anche il numero delle start-up che sono state avviate, sono tante, sono veramente tante negli ultimi anni e al di là delle start-up ci sono comunque grandi aziende o aziende medie, strutturate, aziende innovative che stanno investendo nell'area delle nanotecnologie inserendo anche delle funzioni professionali che provengono da una elevata scolarità e anche da una puntuale scolarità, perché ovviamente serve anche un percorso di un certo tipo per poter poi lavorare in questo ambito. Quindi io sicuramente su questo credo di poter confermare una crescita significativa e un apporto che le nanotecnologie possono dare sul mercato occupazionale. Ecco, una cosa, Nicola Trevisan, di cui ci si lamenta spesso quando si parla di start-up, di queste nuove iniziative di business nate da idee che vengono spesso dalla ricerca, è il fatto che in Italia mancano i capitali che vengano a investire su queste nuove idee, che in qualche modo scommettono su idee di business nuovo. È così anche per le nanotecnologie oppure ci sono iniziative particolari che rendono più facile in questo settore questo trasferimento tecnologico? Ma qui le considerazioni da fare sono due. Esistono delle iniziative dedicate, noi ne abbiamo una, si chiama Nano Challenge, che è destinata a finanziare idee di business nel settore delle nanotecnologie e tra l'altro questa idea è sostenuta da Intesa San Paolo e da quest'anno anche da Enel. Però io non sono molto d'avviso sul fatto che in questo paese manchino le risorse per finanziare start-up. Le risorse in realtà ci sono. C'è probabilmente rispetto ai paesi anglosassoni una minor propensione al rischio, una diversa propensione al rischio e quello che è facile nei paesi anglosassoni fare, cioè nel finanziare le start-up, da noi invece è considerata una cosa molto difficile, anche perché c'è un aspetto dietro a questo, ed è che da noi se un'iniziativa va male sei in qualche modo bollato come, tra virgolette, fallito. Nel mondo anglosassone se un'esperienza va male viene considerata positivamente perché comunque rappresenta un'esperienza che è stata fatta e che va a migliorare il bagaglio professionale dell'imprenditore di chi ci ha rischiato, insomma, è proprio l'approccio che è molto molto diverso. C'è un approccio in cui si impara dai propri errori, invece da noi gli errori sono una volta fatti, sono come dire un macigno, ecco, che un'onta che rimane. Esattamente ripulibile, ecco. E questo è un grosso problema, un grosso handicap. Certo, ringraziamo Nicola Trevisan, ricordiamo, direttore generale di Veneto Nanotech, per essere rimasto con noi. Alla prossima allora. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. Non è la prima volta, insomma, che parliamo di innovazione per uscire dalla crisi, e sicuramente sembra sempre che questa Italia faccia la figura del fanalino di coda, no? Mancano i finanziamenti, c'è difficoltà a riconoscere i tentativi. Diceva prima, no? Bene Trevisan, lo sbaglio non è necessariamente un'onta. No, deve essere anche un percorso di formazione anche dello stesso imprenditore, di chi prova a investire, rischia di proprio soltanto sulla base di un'idea che non è ancora concreta e che insomma ha il diritto di non essere bollato come un perdente. Insomma, questa è una mentalità che dovrebbe cambiare. C'è anche un dato, secondo me, ed è importante quello che sottolineava Trevisan. Parliamo di un settore che impiega persone con una capacità e una formazione elevata, e forse è bene ricordare che è vero, è molto difficile trovare lavoro in questo paese in questo momento, però è anche vero che ci sono alcune facoltà che vedono pochissimi iscritti, per esempio chimica, e proprio la laurea in chimica è una delle lauree che invece si può utilizzare molto per entrare in settori come le nanotech. Quindi c'è forse anche poca informazione su come fare incontrare i percorsi formativi con poi quelli professionali, e questa è un po' anche la nostra sfida qui a Pensatech. Io voglio ricordare agli ascoltatori il nostro Twitter, Damiana, e cioè Pensatech con la chiocciolina, e questo perché vi invito a scriverci anche per raccontarci se utilizzate materiali nanotech consapevolmente o meno, perché come abbiamo sentito è un settore molto trasversale, quindi questi materiali in realtà li troviamo dall'ombretto a alcuni dei farmaci che prendiamo, a un sacco di altre cose, e credo che quindi sarebbe anche interessante capire quanto siamo consapevoli dell'uso di questi materiali. Sì, e tra l'altro abbiamo parlato anche con Trevisan di come quali potrebbero essere le applicazioni delle nanotecnologie. In Italia c'è un settore in particolare che potrebbe essere in forte espansione, che molto spesso invece è proprio la vittima dei pochi investimenti. Sì, esattamente, è un settore purtroppo ben noto da molto tempo, che è quello dei beni culturali e delle belle arti. È un settore nel quale però adesso esiste una nuova tecnologia, proprio nanotecnologia, sviluppata da un gruppo di giovani ricercatori e imprenditori dell'area veneta, che ha deciso di provare questa avventura, proprio come diceva Trevisan prima. Questa avventura si chiama Siltea, e noi abbiamo al telefono Michele Cecchin, che è uno dei 5 fondatori di questa azienda, che si occupa poi, lo scopriremo, di qualcosa di molto particolare. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Allora, dicevamo, voi vi occupate di nanotecnologie applicate ai beni culturali e alle belle arti. In che modo? Allora, noi siamo uno spin-off dell'Università di Padova e ci occupiamo appunto di film sottili nanotecnologici da applicare nel settore vetro e materiali vetrosi, materiali ceramici. E è una tecnologia che è stata sviluppata qui presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova dal professor Renzo Bertoncello, dal gruppo di ricerca di chimica per i beni culturali. Si si tratta di film sintetizzati con tecnologia Solgel. Ecco, e che funzione hanno questi film? Questi film hanno essenzialmente la funzione di essere un rivestimento protettivo anticorrosione. Essendo appunto dei film di silice, la silice è nota come essere un materiale molto resistente dal punto di vista chimico-fisico, quindi aumenta queste caratteristiche nel materiale su cui viene depositato. Il vostro settore, quello delle belle arti, è forse legato anche ai finanziamenti statali o riuscite a muovervi comunque anche nel settore privato, cioè nelle opere d'arte che magari sono di istituti privati o di proprio privati cittadini? Sì, diciamo che siamo partiti nel primo anno di attività con un incarico diretto da parte del Ministero dei Beni Culturali, quindi essenzialmente sono contratti di tipo pubblico. Non mancano comunque anche le richieste da parte di privati e non mancano ovviamente anche le offerte da parte nostra per quel tipo di mercato. Ecco, voi quando avete cominciato la vostra attività? Perché siete giovanissimi come... Noi sì, siamo under 30 diciamo, siamo partiti nel 2010 partecipando ad una business plan competition, la Start Cup, che ogni regione d'Italia organizza, certo. La Start Cup Veneto 2010 organizzato appunto dall'Università di Padova, l'Università di Verona e quella di Venezia, premiavano diciamo e premiano ogni anno delle idee di imprese innovative che poi aiutano con dei finanziamenti, con un'assistenza dal punto di vista commerciale, finanziaria, e quindi da lì, comunque supporto. E da lì siete partiti e quindi diciamo che sono due anni e poco più che in realtà siete in attività. Siamo partiti nel 2010 con la proposta che poi si è concretizzata in impresa, la società è stata costituita ad aprile del 2011. Ecco, Michele Cecchin, una domanda, qual è la prospettiva che avete adesso? Nei prossimi anni come vedete il futuro di Siltea e anche il vostro futuro professionale? Beh, il nostro futuro lo vediamo come ogni imprenditore lo vede roseo, diciamo. Noi cerchiamo di aprirci adesso a mercati internazionali e non comunque rimanere relegati solo al settore beni culturali, ma aprirci anche ad altre applicazioni, dato che appunto abbiamo la possibilità di farlo, visto che si tratta comunque di un prodotto, di una tecnologia versatile che può avere tanti altri vantaggi in tanti altri ambiti. Insomma, una ventata di ottimismo da un giovane che all'interno di Siltea sta creando un nuovo business basato su una ricerca e una innovazione totalmente italiana. Ringraziamo Michele Cecchin per essere rimasto con noi e insomma in bocca al lupo per i vostri business plan. Grazie il lupo e grazie a voi. Noi lo ringraziamo soprattutto anche per questa ondata di ottimismo, non è così semplice in realtà in questo periodo vedere persone convinte di quello che stanno facendo e soprattutto convinte che lo continueranno a fare, anzi meglio. Soprattutto se queste persone sono under 30, che insomma in questo momento sembra una delle fasce più depresse della nostra società, quindi ben venga l'ottimismo. Elisabetta, ci dicono qualcosa dal mondo dei social media? No, i social media tacciono, in compenso noi parliamo molto e io vorrei sottolineare che sul nostro Twitter Pensatech abbiamo messo tutti i link alle realtà di cui abbiamo parlato oggi, quindi Veneto Nanotech, che ricordiamo tiene la sua conferenza a Venezia dal 21 al 23, se non sbaglio, novembre. E poi anche il link all'esperienza di Siltea con cui abbiamo appena parlato, appunto una startup, come dicevate voi, di under 30. E mi è piaciuto Michele Cecchin che diceva il mio futuro lo vedo roseo come tutti gli imprenditori, perché non è una frase che si sente frequentemente appunto nei media italiani. E quindi niente, tutti i riferimenti delle cose di cui abbiamo parlato li troviamo appunto sul nostro Twitter Pensatech. E siete ancora in tempo per comunicare con noi sempre sui nostri social media, su rcdc.it, poi tra pochissimo troverete anche il podcast di questa nostra puntata. A questo punto non resta che salutarci, una buona giornata a tutti. Buona giornata. Ciao.